Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Lunedì, senti con che spirito inizio la settimana. Ma no, tu inizi con questo spirito perché ha vinto l'Inter, io lo so che è questo. Guarda che tutti mi dicevano, ma perché adesso non ironizzi più, meno male che c'è l'Inter. Ma ieri io ero felicissimo. Cioè, tra Inter e Juve, tutta la vita Inter. Tutta la vita. Cioè, potendo avrei scelto che perdessero tutte e due. No, ma non si tifa mai contro. Tranne che con quelli che non si sopportano. Esatto. Va bene. Allora, noi oggi in realtà festeggiamo. Vedi, i miracoli avvengono per una ragione. Perché oggi, che santo è? È San Gennaro. È vero. E siccome San Gennaro, cioè uno dei santi a cui... Napoli è primo in classifica. Esatto. Hai capito? Perché antropopicamente è uno dei santi più potenti nella convinzione popolare da sempre. Fa addirittura tre miracoli l'anno fissi, la liquefazione del sangue. Dovrebbero spostarlo a maggio, quando finisce il campionato San Gennaro. Ma devi sapere che il primo sabato di maggio c'è la prima liquefazione, poi c'è il 19 settembre, poi c'è il 16 dicembre. Quindi il Napoli calcio ha di che sperare, per così dire. Ottimo. Perché tre volte l'anno. Il problema è che poi tutto il resto sono santi della Juve. Però detto questo, scusa, ognuno ha i santi suoi in paradiso, ma lei ne ha parecchi, per così dire. No, stiamo scherzando. Comunque oggi appunto San Gennaro si staglia rispetto a tutti gli altri santi che si venerano oggi. Cosa avveniva oggi nella storia? Cose interessanti, perché oltre ad essere il compleanno di Umberto Bossi, per esempio nel 1959, tempi della guerra fredda, guarda, accadevano cose incredibili. Per esempio Khrushchev, visita negli Stati Uniti nel settembre 59, gli impediscono di andare a Disneyland. Questo non se lo ricorda più. E lui si imbufalisce dicendolo: è un atto di discriminazione. Sbatte la scarpa. No, quella è un'altra cosa. Però ecco, Khrushchev che voleva andare a Disneyland, gli americani non lo mandano. A me, tutte le volte che mi viene in mente, mi è sempre fatto da ridere. Invece nel 1981, questa sera, tanti anni fa, 1981, c'è stato il mitico concerto a Manhattan di Simon & Garfunkel. E lo dico perché, siccome in piccolo io non me rendevo conto di partecipare a una cosa così storica, che è quella da cui c'è il famoso album del concerto di New York, io ero lì e mi sembrano passati circa 700 anni. Central Park. 700 anni fa, mi sembra. È una cosa da... E invece sì, questo è. Allora, detto questo, in realtà... il compleanno di Umberto Bossi, il compleanno anche della mia mamma, si può dire? No, insomma, si deve dire. 81 però anni. Però questo quindi. Io non potevo dirlo se non fossi stato tu, perché altrimenti poi mi avrebbero detto che eravamo d'accordo. Invece no, posso dire, insomma, ammettiamolo, forse per la storia italiana il compleanno di tua mamma è più importante di quanto... No, non so. Sì, lo voglio dire. Di quello di Bossi? So, intanto... Vabbè, intanto è lì. Ecco, io la penso così. Ci sono tanti compleanni di persone comuni che hanno un significato nell'Italia, secondo me, più rilevante di quello di qualcuno che è molto noto. Vabbè. Mi sembra giusto. Un bel regalo alla mia mamma. Allora, caro Oscar, noi parleremo di tante cose, come sempre, oggi. Il numero è vostro, nel senso che 800 24 0024, potete prenderlo d'assalto per parlare di immigrazione, sicuramente parleremo, perché visto che Renzi ha battuto i pugni. Renzi, dopo essersi incontrato con questo incontro d'amore a ventotenne con Olanda Merkel, pochi giorni dopo è finita la commedia e ha sbattuto i pugni, perché nel frattempo non si cresce più, c'è una legge di stabilità complicata, non gli danno quello che ha fatto scrivere ai giornali per tutta l'estate, cioè mezzo punto più di deficit, e allora improvvisamente ha scoperto. Tu dici che questa lettura. Questa è la mia opinione. Però io dico, su questo si butta la palla in tribuna. Un po' fa bene a dire sulla questione dell'Africa, ci sono paesi come anche la Svezia, dice, vanno puniti quei paesi europei che non accettano di gestire questa situazione di ripartizione, di quote, eccetera. Cioè, se vogliamo far finta che non c'è una situazione epocale di migrazioni, no. Si può... Io reputo solo che, allora, siccome non è che nasce oggi l'insufficienza dell'Europa su questo, cioè il fatto che sono anni che l'Europa... che dicano che non esiste più, ci sono le politiche nazionali, insomma, è tutta una cosa tra governi. Allora, siccome è anni che si chiacchiera e si fa poco, io credo che la strategia degli strappi improvvisi, improvvisamente ci rendiamo conto che sia destinata a non avere grande attenzione, magari forse, mi sbaglio. Forse la novità più interessante sul tema, però bisognerà capire come evolve, sul tema immigrazione è che Renzi vuole centralizzare con una task force a Palazzo Chigi, e pare che ci sarà una nomina anche di una persona che dovrà gestirla, quello che finora era controllato più dal Ministero dell'Interno. Quindi significa sfiducia per Alfano, questo tradotto... Non si capisce, perché i giornali dicono che ci saranno una task force che affiancherà Alfano. Non si capisce, ma il significato politico-istituzionale è questo. Cioè, caro Alfano, anche il tuo Presidente del Consiglio dice che non vai bene. Ma oggi c'è anche infatti una lettera di Sala, sindaco di Milano, a dire così non va bene, la gestione, vengono tutto scaricati sui comuni, ci vuole una task force centrale. Insomma, non lo so questo quanto inciderà poi concretamente, lo vedremo, però è la novità del giorno, ecco, sui giornali. Raccontate. La task force. La task mi permetto di ridacchiare. Perché? Perché? Cioè, o c'è una novità, nel senso che cambia lo schema politico, ma cioè, non è che può cambiare qualcosa se invece che fare le riunioni al Viminale le fanno a Palazzo Chigi, cioè, perdona, fumo anche questo. Cioè, cambia perché noi ci diamo uno schema nazionale e non passiamo più attraverso i prefetti, ecco, che dicono ai sindaci ti becchi questi e vedetela tu. Ecco, allora, mi piacerebbe più vedere se c'è uno schema concreto di quel tipo, perché per dove fanno le riunioni francamente non cambia nulla. Ecco. Poi ne parleremo comunque dalle 9 alle 9.30 anche con ospiti, capire il tema dell'immigrazione. Certo, qua Oscar di New York non abbiamo detto niente, anche sì, perché e invece comunque di rompere saranno due pentole a pressione. Va bene, vedremo se questa nuova ordigno che hanno trovato Elizabeth sui New Jersey sui binari era collegato o meno, però l'irrompere comunque nella campagna elettorale di nuovo presidenziale del tema c'è tutto. B, cari ascoltatori, la sorpresa è che dopo mesi e mesi in cui tutti i media dicevano Trump ridicolo, nella realtà nelle ultime due settimane il signore è tornato ad essere testa a testa nei sondaggi e soprattutto negli stati decisivi, gli swing states come si chiamano, per le elezioni presidenziali, a battere nei sondaggi a Hillary. Sì, temo che anche il tema del terrorismo gli dia una mano. Perché il tema del terrorismo sicuramente gli dà una mano. Ieri ancora non si sapeva quasi se fosse stata un'esplosione oppure no, o addirittura una fuga di gas, che Trump diceva dobbiamo essere molto duri, molto determinati, colpire duramente. Non si capisce in questo caso, si può intuire a lui a che cosa si riferisse e dove colpire, però in questo momento a New York non c'è nessun tipo di rivendicazione, non c'è nessun tipo di chiarezza su quello che è avvenuto. Poi, caro Oscar, però parleremo anche di questo, e ne parliamo adesso di questo dibattito sulla card per i 500 euro per la cultura ai 18 anni. Vi ricordate, cari ascoltatori, questa vicenda che è un po' sembrava un po' sparita, un po' sotto traccia, no? In modo carsico si era affondata. Si era affondata perché in teoria era stabilita, anzi in pratica è decisa dalla legge di stabilità 2016, cioè un anno fa. Però siccome ovviamente si vota per il referendum tra poco, entra in vigore poco prima, guarda caso. Guarda caso. Tu dici da ottobre c'è un sito. Il sito, aspetta che ce l'ho qua, com'è che è? www. Porca miseria. 18 app. www.18 scritto 18 in numero. 18 col numero app tutto attaccato. .it. Sì. Ed è legato, appunto, è un portale nel quale bisogna iscriversi sia i 18enni. Passando per lo SPID, quindi per l'identità digitale. Si devono iscrivere chi? Quelli che sono nati nel 2017, quelli che sono nati 16, nel 1998, tutti ragazzi, anche stranieri, sono 574.953 giovani che possono usufruire di questi 500 euro da spendere in che cosa? Libri, concerti, musei. Parchi... poi che cosa, Oscar? Tutto quello che è cultura. State, questi consumi culturali non sappiamo ancora qual è la tesi rivista, perché il Consiglio di Stato ha chiesto al governo di indicare con più precisione le filiere che si devono accreditare, cioè tutte queste spese le si potrà fare quando in questo sito si saranno iscritti tutti coloro che rappresentano le librerie eccetera eccetera, e comunque sì, ha un'amplissima sede, quindi un'amplissima facoltà, anche i cinepanettoni diventano cultura. Io sono un po'... E questo sarebbe infatti il discrimine interessante, capire che cosa... No, pare che non ci sia, quindi tu sei libero... C'è un concerto di Gigi D'Alessio e il Consiglio di Stato, questa è l'ultima cosa che sappiamo, 7 settembre ha chiesto al governo, precisate meglio per favore, Ah, però cosa fai? Però, la lista dei cantanti, la lista degli artisti, la lista dei film. Per esempio, sai, se mettessero solo la filiera dei cinema de sé, adesso lo dico non perché sono radical chic io. Sì. Sai, se mettono le multisale, vuol dire che da Star Trek a cose, a qualunque cosa, a Cinepanettone, certo, va benissimo. La mia domanda è: bisogna, quella è cultura? Cioè, no, sono questo... questi 280 milioni ai nati ai 18, solo ai 18 anni. Ah, io, ma francamente, infatti, ero contrario e resto contrario. Il dibattito è capire intanto come funziona, e ce lo spiega il sottosegretario alla cultura Dorina Bianchi, che è con noi. Buongiorno sottosegretario, grazie di essere Buongiorno. Con noi. E poi anche dovremo capire il grande discrimine, cioè che cosa sia effettivamente cultura oppure no, se si può stabilire che cosa sia cultura o cosa no. Con noi c'è anche il vice direttore del Fatto Quotidiano, Stefano Feltri. Buongiorno e ciao Stefano. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a voi. Ciao. Allora, Dorina Bianchi, intanto, quando parte, ci dica due o tre nozioni. Il sito l'abbiamo detto, come iscriversi, ma quando parte effettivamente tutto ciò? Da ottobre? Poi c'è una data precisa? Ad ottobre bisogna registrarsi per avere questa carta elettronica dei 18 anni. Io sentivo parlare di prodotti acquistabili, sarò più chiara, così le linkiamo, si potrà andare per esempio nelle rappresentazioni, si potranno comprare dei biglietti o abbonamenti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, biglietti per spettacoli dal vivo, libri, biglietti per entrare ai musei, alle mostre, agli eventi culturali, alle gallerie, alle aree archeologiche, parchi archeologici, anche per esempio pagando la guida, perché la guida potrà essere pagata tramite il bonus, o alcune fiere che sono delle fiere, sì, culturali, per esempio quella del libro, faccio un esempio, cui si può entrare tramite la tessera. Però non ci sarà un elenco, sottosegretario, cioè a dire, che ne so, questi concerti sì, questi concerti no? No. Perché non si può fare questo tipo di... Ci sarà un elenco soltanto per quanto riguarda le fiere. Le fiere. Quelle sì, perché sono talmente tante che hanno necessità di essere delle fiere che sono specifiche per, insomma, la cultura. Vabbè, diciamo il 18enne va lì, il 18enne si registra sul sito, ve l'abbiamo detto, www.18app.it, e fa una richiesta. E come funziona? Non so, vuole andare a quel museo e gli viene scalata, riceve questa card con 500 euro dentro. Sì, e vengono man mano scalati. Queste risorse tecnicamente funzionano. Io penso che sia molto, invece, voglio dire, è un incentivo importante. Noi abbiamo fatto quest'anno musei aperti, sabato e domenica. Per la prima volta abbiamo avuto una presenza di visitatori nei musei molto elevata, e in qualche modo è un incentivo a prendere in considerazione. Oggi noi italiani purtroppo non siamo abituati a andare per musei. Vabbè, un incentivo, diciamo, a fruire del nostro patrimonio culturale. Qua Oscar Giannino, magari Stefano Felte, insomma, i dubbi sono un po', Oscar, che sia una, diciamo così, un paese bonus dove elettorale. La cultura soffre, secondo me non è un bonus elettorale, perché è un bonus, tra l'altro, legato alla cultura, che sinceramente non ha, in Italia è quella che soffre di più, quindi Io non so se so fare di più, sottosegretario. Io invito tutti coloro che sono in ascolto a leggere il capitolo a questo dedicato nel libro che sta uscendo del professor Roberto Perotti, Status Quo, da cui si vede che con questo governo noi siamo passati sul solo cinema da 200 a quasi 500 milioni di euro l'anno. No, mi dispiace, cioè, prima di dire che soffre, diciamo che gli stiamo dando molti più sussidi. Che stiamo dando sempre più. Non soffre troppo. Aggiungiamo, sottosegretario, non solo al cinema, a tutti i consumi culturali, benissimo, aggiungiamo altri 279 milioni che hanno una particolarità che ai miei occhi non sfugge. Questa volta a scegliere sono i 18enni e non sono più automatici, cioè trattati tra Stato e chi rappresenta queste filiere. ma di questo si tratta, altri sussidi di Stato. Allora, la mia opinione, detta fuori dai denti, visto che siamo a 500 milioni per il cinema, 300 milioni per i consumi culturali e così via, iniziano a essere cifre nel totale del bilancio dello Stato, adesso che arriva la finanziaria, di un certo impatto rispetto ad altri problemi del paese. Questa è la mia opinione. Dico personalmente questo, rispetto poi il fatto che questa piattaforma tecnologica è stata messa in piedi in una maniera molto innovativa questa volta, è un marketplace, eccetera, eccetera. Non dico di no, però ci sarà un motivo se non c'è un sussidio di questo tipo ai diciottenni in nessun paese del mondo o no? Guardi, è un caso che sia dato a chi vota per la prima volta? Tutto lì. Allora, io penso una cosa, poi penso che noi siamo un paese conosciuto nel mondo per la grande quantità di beni architettonici, per la cultura che abbiamo sempre esportato nel mondo. E siamo nello stesso tempo un paese dove, per esempio, la frequentazione dei musei da parte dei giovani è bassissima. E nei primi 10 musei del mondo noi non ci siamo, c'è soltanto i musei vaticani. Quindi io credo che da questo punto di vista noi, la politica di questo governo è quello di valorizzare quello che sono tutta la nostra cultura, sì, e di riavvicinare i giovani a questo. Forse però dovremmo fare di più, secondo me. Ma questa è una posizione, diciamo, a mio avviso bisognerebbe già incentivare le scuole ad andare sempre a questo, sì, dare l'intento è chiaro, l'unico dubbio è appunto l'idea di dare 500 euro tra l'altro a una platea di 500.000 erotti giovani che votano appunto avendo 18 anni, questo è il dubbio. Non so se Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano anche voi avete avuto un po' questa posizione critica, se non altro sospetta, detto che l'intento di valorizzare il patrimonio in tutte le sue forme è una cosa sacrosanta, no? È legittima, Feltri. Ma vedi, qua si pone più o meno la stessa questione degli 80 euro, anche se declinata in maniera un po' più sofisticata, come accennava anche Oscar. Cioè, il principio è: se tu dai dei soldi alla gente, la gente più o meno li spende, quindi entrano in circolo, quindi si sta un pochino meglio. Questo però non è politica economica, questo è un'ovvietà, perché il tema della politica economica è metterli là dove producono il maggior impatto, non semplicemente, diciamo, essere soddisfatti perché si sono dati i soldi in tasca. Qui ci sono una serie di questioni. Una è che questo bonus non tiene conto della situazione economica, per cui 500 euro possono essere tantissimi per un ragazzino diciottenne che viene da una famiglia, diciamo, dove c'è magari monoreddito, magari del sud, ma possono essere totalmente irrilevanti per un diciottenne di Milano che viene da una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano e ha una paghetta mensile della stessa entità. E questo già, come dire, è un tema che forse andava considerato. L'altro tema è che secondo me non è, diciamo, il prezzo d'accesso ai musei non è l'ostacolo che impedisce ai giovani di andarci. Probabilmente quei soldi porteranno a un aumento dei consumi culturali di chi già ha consumi culturali, ma non porteranno ad avvicinarsi alla cultura chi diciamo ne è lontano perché non ha gli strumenti, non ha il contesto familiare, non ha le opportunità sul territorio. Quindi il tema non è se è giusta o no l'opzione, ma se è efficace o no. Ha ragione Oscar, è un marketplace, è una cosa un po' innovativa, sicuramente favorirà l'accesso dei giovani all'identità digitale, quindi loro cominceranno a familiarizzare con una infrastruttura che negli anni potrà essere molto importante. Io ho studiato un po' il sito, è un po' farraginoso, però magari migliorerà e ci sono alcune scelte abbastanza discrezionali, per cui per esempio qualunque film è cultura, mentre giornali e riviste non lo sono. Ora non è una rivendicazione corporativa, ma è un... Diciamo, magari uno vorrebbe un bel abbonamento al Fatto Quotidiano e non è... No, non è. Però dico, diciamo, anche lì, che cosa è cultura oggi? Diciamo, è un approccio un pochino novecentesco, sì, farlo decidere al Ministero che stabilisce che appunto un film di qualunque tipo deve essere culturale. anche perché, come dire, anche lì è un po' vecchio come approccio, voglio dire. Però quanti sono i diciottenni che vanno al cinema e che non riescono ad andarci perché hanno problemi? No, ma facciamogliela diretta. Il sottosegretario vuole rispondere appunto al, come dire, il sospetto, guardi che ce l'hanno in molti, che dire, si dà ai diciottenni un bonus, guarda caso i diciottenni votano per la prima volta, guarda caso tra l'altro si vota tra poco, anche se per un referendum, una vicenda. Vuole rispondere a questo tipo di Non penso che... Allora, sinceramente... io sono convinta che i diciottenni non votino in relazione ai 500 euro che gli vengono dati, che gli vengono dati come bonus, non c'è dubbio. Io penso che il bonus sia stato dato ai diciottenni perché indubbiamente sarebbe stato bello darla a una platea molto più ampia, ma indubbiamente i costi sono importanti. Il diciottenne perché in qualche modo entra in un'altra fase della propria vita e si inizia e secondo me l'approccio con tutto quello che è cultura diventa importante per la sua vita anche futura. Quindi, e poi perché il diciottenne può iniziare anche a gestire quelle che sono le sue risorse e anche un modo per diciamo abituarlo a avere delle risorse e a spenderle, a gestirle da solo. Quindi diciottenne perché è l'età in cui insomma si passa alla maggiore età e quindi ci si inizia a gestire da soli, quindi la data, l'età viene scelta soltanto in relazione a questo e non sicuramente a un fatto elettorale. Anche perché io spero che insomma si vada a votare tra 2 anni, quindi... Ah vabbè, c'è il referendum, c'è il referendum, sottosegretario, quello almeno è un voto un po' più recente, insomma, il voto sul referendum. Ma lei pensa che un giovane si faccia, condizionare, diciamo, tra virgolette, condizionare da un bonus che gli viene dato dal governo? Io sinceramente ho molto più fiducia di voi nei diciottenni. Nei diciottenni, va bene, Oscar, capito. Respinta al mittente questo tipo di insinuazione, ecco, mettiamo così, Oscar. No, vabbè, è provato, cioè non è che posso immaginare che i componenti del governo dicano o no, esiste questo provvedimento. No, per ma non è perché sono componente del governo, sinceramente, perché davvero... Non sono convinta che un diciottenne non decida votare sì o no al referendum a secondo un bonus che gli viene dato. Io sono convinta sinceramente, che è ovvio che noi non abbiamo strumenti per dire no, è sicuramente vero il contrario. A, B, quello scusi. Io sinceramente, mi scusi se la interrompo, prego. Non riesco a capire questa polemica che c'è sul bonus, tra l'altro che riguarda un settore che in Italia soffre perché è un settore che comunque ha bisogno di essere potenziato. Faccio l'esempio dei teatri, settori dove ci sono tantissimi giovani che lavorano e che dovrebbe tento di spiegarglielo, sviluppare. Ma in senso costruttivo, perché non c'entra niente giudizio politico sul governo. No, ma si figura, appunto, cioè, quello che muove le critiche come mie, come quelle di Stefano Feltri, non è il l'avete fatto voi sbagliato, ci mancherebbe altro. Le faccio un esempio concreto. Il problema è che siccome come e per certi versi giusto, voi date una platea dei consumi estesissima, indifferenziata. Allora, se io devo giudicare, è un utilizzo di cui apprezzo la libertà da parte del consumatore diciottenne, che serve oggi per il diciottenne per ampliare la sua facoltà di spesa e dall'altra parte, come dice lei, per sostenere i consumi culturali del nostro paese, dargli la possibilità di scalare ai prezzi del contribuente il cinema panettone di fine anno, la mia risposta, sottosegretario, è 2 punti a capo, un no grande come una casa con 7 punti esclamativi. Sa perché? Perché quel tipo di produzione già la sosteniamo pubblicamente e non dovremmo, rispetto ai soldi che servono di più per i diciottenni che non hanno politiche attive del lavoro e così via. Ecco, sono obiezioni di questo tipo qua. Se avessi visto, e Avrei voluto vedere qual è il criterio con cui voi mettevate solo il cinema del sé, discutibile, ma mettete quelli, oppure libri di un certo tipo. Ma non c'è dappertutto. Ma i libri di cucina, con tutto il rispetto, hanno bisogno del sostegno dello Stato in Italia? La mia opinione è che, ben per chi li pubblica, lo capisco, però è una logica un po' sbagliata. Ma è quello che interessa al giovane, noi dobbiamo anche rispettare l'interesse che il giovane ha. Ma io lo rispetto, però il problema è che lo stiamo facendo con i soldi dei contribuenti, e con i soldi dei contribuenti, se permette, la logica non può essere vedi tu, perché allora diamolo ai ventenni, ai ventunenni, ai ventiduenni. Guardi che con i soldi dei contribuenti diamo anche soldi ai giornali, quindi sì, sbagliato, altrettanto sbagliato. Allora non è questo il problema. E come no, il problema è mance su mance, però ripeto, non sto in questo, non c'entra col MIBACT e così via, è una riflessione di fondo. Andare avanti con i sussidi a questo, a quello e a quello non dà priorità e oltretutto provoca effetti che, come abbiamo visto, sono un po' più limitati delle attese. Sì, ma la questione appunto è la questione del finanziamento pubblico, cioè soldi pubblici. Noi però, sottosegretario, so che la dobbiamo liberare, dobbiamo anche andare un attimo in pubblicità. La ringraziamo, le strappiamo l'impegno, insomma, una volta che partirà a ottobre, se vorrà, di essere qui ancora a discutere, a parlare. Come funziona davvero. Esatto. Se Stefano Feltri può stare con noi ancora dopo la pubblicità, qualche minuto, perché parliamo magari anche delle altre tematiche che abbiamo affrontato, l'immigrazione, ci sono gli ascoltatori, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, sono le 8:49 minuti, ci sono anche tanti ascoltatori, con noi c'è anche Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano. Stefano, questa scelta dello Stato di dove mettere i soldi non piace molto, devo dire, anche a volte ai nostri ascoltatori che ci mandano messaggi 349-238-6666, cioè questa scelta imposta un po' dall'alto, o no? Ma sì, poi diciamo il sottosegretario Dorina Bianchi diceva che non ha ragioni elettorali, ma ci ricordiamo anche come è nata, cioè dopo le stragi in Francia Renzi ha sostenuto, unico in Europa, che il terrorismo si combatte sostenendo la cultura e i giovani, cosa diciamo principio anche lodevole nel lungo periodo, ma se lo fai diciamo a ridosso delle scadenze elettorali ti esponi un po' cioè, c'è da dire che in Italia una scadenza elettorale c'è ogni 6 mesi. questo è vero, però è vero anche, come dire, che c'è un approccio dietro questa scelta che è sostanzialmente analogo a quello degli 80 euro, cioè io do i soldi direttamente alla persona, non faccio una politica finanziata con una scelta, come dire, mirata e anche selettiva. Cioè, diceva Dorina Bianchi che il settore della cultura in Italia ha dei problemi, ma non ha mica dei problemi non è che un problema di carenza di domanda dovuto alla barriera d'accesso troppo alta del prezzo. Cioè, è vero, i teatri costano tanto, ma non è che la gente non va a teatro perché non se lo può permettere. Una parte sarà anche così, una parte di pubblico colto, sofisticato, che vorrebbe andarci ma non, nel suo bilancio familiare non riesce a infilarci più di uno spettacolo in 2 mesi, ci sarà anche, ma non è certo quello il problema di massa. Cioè, Oscar ci dà i sussidi al cinema, ma quel tema si può moltiplicare, si può applicare a tutti i settori. Cioè, ci sono musei pessimi che costano tantissimo e film pessimi che vengono sussidiati al MIBAC, quindi insomma Mi ha colpito tra l'altro che il tentativo era dire cosa rompete le scatole, tanto sussidiamo anche le imprese editoriali, per quello che mi riguarda abolitele, cioè proprio che chiaro, sottosegretaria, membri del governo, cioè non è un modo per dire ai giornalisti state zitti, io non sono il mio editore, levate i soldi al mio editore, punto. C'è Daniele che ci chiama. I giornali sussidi hanno sempre peggiorato le cose, esatto. Ci sono stati, peggiore era l'informazione. C'è Daniele che ci chiama da Perugia, vediamo cosa ci vuole dire. Daniele, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Quello che volevo dire in parte già l'ha anticipato Oscar, in primis che questa operazione dall'estero, anche se fatta con i migliori intenti, viene percepita dall'uomo della strada, quale sono anch'io, come un premier che si sta comprando i voti 500 euro l'uno. In più parlo da persona di 36 anni che all'epoca è stato probabilmente uno dei peggiori diciottenni sulla piazza che ci potessero essere. Cosa ha fatto? Che peggiori? A quell'età, a quell'età non si capisce praticamente niente, cioè, cioè, ti danno in mano questi soldi, li bruci. Ma no, attenzione, no, chiariamo una cosa, non è che ti danno 500 euro cash e vai a farti le canne, Daniele, insomma, chiariamo una cosa, cioè, è una tessera sulla quale uno ci sono caricati 500 euro e scali se vai a vedere un prodotto culturale, non è che ti diamo in mano, tieni 500 euro, questa sarebbe proprio una roba un po' brutale, uno se li va a spendere non per cultura. Quindi almeno in questo, Daniele, è chiaro che verranno destinati a prodotti culturali, poi si può stabilire che cosa sia cultura. Però, però se fai vedere 50 sfumature di grigio, allora, con tutto rispetto, sì, viva la cultura dell'Eros, non sto dicendo quello, però ma perché poi devo dare i soldi ai contribuenti? Hai citato io avrei pensato ad altri film, ma no, magari neanche. È chiaro che se cito quelli dei comici tutti dicono che io sono triste e così via, vale per qualunque cosa, non capisco perché devo dare i soldi al contribuente per questo, con tutto rispetto. Vabbè, che questo è il problema a monte, ancora prima di scegliere che cosa sia cultura e che cosa no. C'è Sandro che ci chiama da Pisa, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione, attenti a voi tre in questo caso, visto che c'è anche Feltri. Qualche precisazione, una cosa che viene rimborsata al 100% non si può chiamare incentivo, e questo è il primo aspetto che c'è. Bravo. Un rimborso, allora il rimborso è diverso dall'incentivo, l'incentivo è una parte viene pagata e una parte viene rimborsata, è il primo aspetto. Che... Secondo, il diciottenne che va al cinema o il libro che compra difficilmente compra un libro di cultura, ma compra o va a vedere Le sfumature di grigio, va a vedere un film leggerino. Ma qui è stato stabilito che non c'è un discrimine tra titoli, non titoli. Andare al cinema è considerato cultura. Culturare i giovani bisogna farlo tutti gli anni, allora questi 500 euro. Non capisco perché la classe di quest'anno usufruirà di questi 500 euro e poi il prossimo anno no. Il quarto, e ha ragione Giannino, perché dare soldi a chi già prende soldi, perché i teatri, i cinema e quant'altro prendono già i soldi dai comuni, dalle province, dalla regione e dallo Stato, perché se ci dovesse essere uno spettacolo teatrale interamente prodotto con i soldi degli spettatori, non ci sarebbe uno spettacolo teatrale, a parte qualche comico che riempie i teatri. Insomma, Sandro, le quattro obiezioni secche una dopo l'altra, mi sembra di capire il suo giudizio, è perentorio. Oscar, dobbiamo fermarci ringraziando Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano. Grazie, dobbiamo fermarci, ma in realtà per il giornale radio, perché andiamo avanti fino alle 9.30, parleremo di immigrazione e quindi poco. Dopo Bratislava, quello che succede ai confini italiani e così via. Capire se Renzi, secondo voi, ha fatto bene a battere un po' i pugni sul tavolo o se è tutta un po' una manovra per oscurare e cancellare. Sempre e dicendo San Gennaro, aiutaci tu. Sì, San Gennaro sempre. Dai, state con noi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Oggi comincia una settimana decisiva per il pacchetto previdenza della prossima legge di bilancio. Dopodomani il governo e i sindacati si incontrano per trovare, per definire l'intesa sulle misure relative alle pensioni, delle quali si parla fin dalla primavera scorsa. Ora siamo alle porte dell'autunno, gli incontri tecnici si sono esauriti, ma sappiamo che qualche perplessità, in particolare da parte della CGIL, resta, per cui vedremo, insomma, se si troverà l'accordo politico. Delle misure allo studio abbiamo parlato ampiamente, specie dell'anticipo pensionistico, ovvero la possibilità di lasciare il lavoro prima di aver raggiunto i requisiti previsti dalla legge grazie a un prestito bancario che poi va rimborsato in 20 anni, quindi accettando un taglio alla pensione futura, taglio che però sarebbe completamente azzerato per alcune limitate situazioni, per esempio per i disoccupati di lungo periodo. Molte attese sono però anche altre novità, i bonus per i lavoratori precoci, ovvero quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni, poi le regole per il ritiro anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti e ancora la ricongiunzione gratuita dei contributi versati in più gestioni previdenziali. A tutto ciò si aggiungono gli interventi per rafforzare il potere di acquisto dei pensionati con assegni molto bassi, quelli tra i 500 e i 700 euro al mese. A questo punto però una domanda è d'obbligo: basteranno i 2 miliardi stimati dal governo per fare tutte queste cose? Beh, qualche dubbio che possano non bastare ce l'abbiamo, ma presto avremo la risposta definitiva. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Siamo ancora qui, caro Oscar, alle 9:04. Sempre qui. Minuti. Diretta. Sempre qui. Scusate, noi avevamo in mente, abbiamo chiesto oggi un importantissimo collegamento, però cari amici napoletani, ci hanno risposto un po' piccati la segreteria del personaggio. Sì. E adesso, scusate, noi già vi abbiamo messo in testa la classifica San Gennaio, che volete pure che intervenga la trasmissione, quindi non può intervenire, accontentatevi ascoltatore di Napoli e continuate a pregare, a pregare, a pregare. Allora, 800, un giorno guarda che arriverà qua, non so, il Cardinal Sepe te ne dirà quattro. E noi gli chiediamo qual è la polverina che mette per liquefare il sangue. Ah, ecco, vedi, allora te ne dirà otto, te ne dirà. No, 800 24 00 24, chiamateci, tra poco parleremo di immigrazione, ma tante persone ci hanno chiamato, tanti ascoltatori sul tema invece cultura. Rita dalla provincia di Milano, buongiorno Rita. A voi, ciao, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, volevo grazie. Solo fare una premessa, che sentire certe cose dette che ha detto il sottosegretario mi fa quasi passare l'euforia della vittoria di ieri sera dell'Inter. No. Se lei è tifosa, se lei si deve essere un'euforia molto maggiore. Se si abbatte per la dichiarazione di un sottosegretario, dai, dica Rita. No, volevo solo dire due cose. Allora, la prima è che più o meno hanno detto tante persone, comunque. La prima è che sicuramente non è questa la modalità per far rilanciare il settore del turismo. Allora io voglio fare un esempio, se uno va a Pisa, a Piazza dei Miracoli, per visitare le attrazioni che ci sono solo in quella piazza, costa 50 euro a testa, quindi è sì. un prezzo che chiaramente una famiglia diciamo normale con dei figli così non se la potrà mai permettere, spende 200 euro. Per andare a visitare le attrazioni, quindi è lì che bisogna intervenire, non dando appunto abbassando i prezzi incentivando le persone così ad andare a fruire dei beni culturali. Esatto, distinguendole anche per livello di reddito, perché a quel punto diamo una mano a chi non può perché non c'ha i soldi. Qui si dà indifferenziatamente a tutti. Esatto. Non le piace questa idea a pioggia. L'altra cosa è che in questa manovra da 23-25 miliardi, di cui ancora non si conoscono bene i contorni, ma si pare che ci sia questo aumento dell'IVA. Allora, ci sono le persone che non arrivano alla fine del mese, ci sono le persone, queste sono. L'aumento dell'IVA è. Non è detto, questo vediamo, cioè si dovrebbe proprio lavorare per scongiurare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'IVA. In realtà, al momento, non è che possiamo dire, però, questo è il timore, ci portiamo avanti. In realtà, dicono che si agirà proprio per scongiurare questo aumento, stiamo a vedere. C'è Alberto da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per i vostri commenti che tutti i giorni ci regalate, che anche questo è modo di fare cultura. Io a differenza quindi ci dà 1000 euro, 500 a testa. Ma anche 5000 se potessi. sì, va bene. Dica Alberto, prego. Niente, io invece sono a favore di questa misura, perché da qualche parte bisogna pure incominciare. Parliamo sempre di giovani, di voler aiutare i giovani. È arrivato a una misura concreta di aiuto. Tra l'altro anche economica, mi ricollego al discorso della radioascoltatrice di prima, anche economica per le famiglie che non hanno la possibilità di portare i propri figli a vedere un museo, per un discorso economico. Certo, poi tutto è migliorabile, la pioggia e le sovvenzioni a pioggia non vanno mai bene, sì. Qualche paletto va messo, ma io direi che se mai si inizia, mai possiamo, come dire, aiutare la nostra cultura. Va bene, quindi lei Alberto è favorevole, hai visto Oscar, abbiamo trovato anche uno, la maggior parte sono contrari dei nostri ascoltatori a giudicare dai messaggi, telefonate, però Alberto invece dice bene. Allora, l'immigrazione, oggi i giornali Oscar raccontano che il governo prevede di avere questa task force centralizzata per migliorare anche i rapporti con i comuni. Il sindaco di Milano Sala ha scritto una lettera su Repubblica dicendo non va bene. Noi qui abbiamo un sindaco di una città che è sempre stata al centro anche di gravi problematiche, il sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano. Buongiorno sindaco. Grazie. Buongiorno. Con noi c'è anche Gianni Pittella, che presiede il gruppo Socialisti Democratici al Parlamento Europeo, europarlamentare. Buongiorno e ben ritrovato Pittella. Buongiorno a voi. Intanto a capire, Renzi fa bene a battere i pugni sul tavolo oppure Pittella è un po' un modo perché così, per non parlare del fatto che l'Europa non, sulla legge di stabilità non ci sta aiutando molto? No, ma non, queste dietrologie non esistono, io so bene come stanno le cose. Renzi aveva un accordo e tra l'altro la Commissione Europea aveva recepito la sua proposta per il Migration Compact, cioè accordi con l'Africa per una partnership economica e politica di 44 miliardi di euro per ridurre i fattori causali dell'immigrazione. Questo accordo doveva essere, diciamo, avallato dal Consiglio Europeo, dal vertice di Bratislava. E che è successo? È successo che non se ne è fatto cenno nel documento conclusivo. E come ovviamente, mai? Beh, questo non lo può chiedere a me che non ero presente. Però sicuramente dimostra una scarsa sensibilità da parte di alcuni governi, quali continuano a fregarsene dicendo tanto il problema dell'immigrazione mica riguarda noi, riguarda l'Italia che è il primo paese di accoglienza, se la fregassero gli italiani. Che bella immagine questo dell'Europa che ci dà. Francamente, che bella immagine dell'Europa. Esatto, è un'immagine brutta, bruttissima, contro la quale ci stiamo battendo con tutte le nostre forze. È tanto vero che il Parlamento europeo si è espresso a larghissima maggioranza a favore di questi provvedimenti, la Commissione europea ha deciso di fare immigration compact con alcuni paesi africani, il governo italiano sta facendo la sua parte, quindi non è che tutta l'Europa che è cattiva, ci sono alcuni governi europei, soprattutto quelli dell'est europeo, che diciamo stanno facendo diciamo Ungheria, Polonia, esatto, Repubblica Ceca, molto questi contrario. Qui sono veramente chiusi ad ogni razionale discussione, perché qui si tratta di eliminare le cause o almeno tentare di ridurre le cause dell'immigrazione. Ma come si fa a dire a uno che muore di fame o che sta nella guerra o che sta nel sottosviluppo, se sta sotto la dittatura, di non venire a bussare le nostre porte? Che cosa faremmo noi? Noi faremmo la stessa cosa. Va bene, è chiaro, questa è la posizione. Oscar, perché ti vedo un po' perplesso? Cioè, Oscar. No, io in generale non credo al fatto che ci fosse questo impegno a mettere 45 miliardi, perché il nostro mestiere è seguire le vicende europee, sappiamo che non c'è il consenso di 27 su questi 45 miliardi, quindi per me non è una sorpresa. Poi la politica deve teatralizzare, lo capisco, il Premier deve rispondere attraverso i media al suo elettorato e a quello delle occasioni che vengono, però quel consenso tra la stragrande maggioranza dei membri non c'è su queste cose, mentre invece i paesi del blocco di Visegrad l'anno scorso, dal loro punto di vista, hanno ottenuto un grande successo, perché dopo che nell'estate 2015 la Merkel aprì a tutti e l'effetto fu l'esplosione del corridoio balcanico, loro con misure nazionali durissime, su cui non sono d'accordo, hanno alzato i muri, hanno chiuso gli ingressi, alla fine hanno costretto però la Germania a fare l'accordo con la Turchia per inaridire il percorso balcanico e siamo tornati al Mediterraneo. Cioè, i paesi del blocco di Visegrad non è che sono i cattivi che non capiscono e odiano l'Europa, hanno avuto un enorme problema di fronte al quale tra di loro hanno trovato una strategia. Ci potrà non piacere, ma ha funzionato. Noi da anni non abbiamo né un modello a livello nazionale che funziona, e la strategia, adesso io non voglio dare giudizi, per carità, perché ogni premier può cambiare ma non si può passare in poche settimane dall'abbraccio di Ventotene a Bratislava pretendendo che la gente capisca, perché non capisca, c'è un contrasto così palese tra quello che è stato detto e la gente ha visto ai telegiornali e sui giornali a Ventotene e quello che avviene adesso, due settimane neanche dopo, che uno dice Ma secondo la versione di Pittella in qualche modo c'era un impegno non rispettato, però vorrei capire dal sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, ci ha raggiunto anche il direttore del giornale Alessandro Sallusti, direttore, ciao, buongiorno e bentrovato. Da sindaco, che ne pensa? Ha letto già i giornali? Ioculano si parla di una nuova task force centralizzata a Palazzo Chigi per gestire più in sintonia, pare, con gli enti locali la redistribuzione dei profughi. Da sindaco, che ne pensa Ioculano? No, io questo non ho ancora avuto modo di leggere, stavamo già ricevendo in comune, però al di là di questo, quello che abbiamo vissuto noi, quindi dalla nostra esperienza, le posso garantire il fatto che se l'intenzione è quella di condividere maggiormente le strategie con gli enti locali, può essere soltanto un dato positivo. noi quello che abbiamo vissuto qua purtroppo è concretizzarsi tutta una serie di ipocrisie che si vedono poi dagli ultimi meeting europei, si concretizzano nel sacco di persone che vivono per strada con la gente esasperata in situazioni di degrado. Purtroppo poi sono gli enti locali, assistiti dalle prefetture eccetera, che si fanno avanti proponendo, suggerendo e mettendo in piedi delle azioni che servono ad alleviare. Cioè, visto da sindaco, questa Europa, l'Europa di Ventotene, l'Europa di Bratislava, lei come la giudica? Ma io negativamente. Non tanto quella di Ventotene, ma quella di Bratislava senz'altro in modo negativo. Perché non è che stiamo facendo un dispetto solo ed esclusivamente al migrante, noi qua stiamo facendo il dispetto a dei nostri concittadini europei che, come a Ventimiglia, come a Milano, come a Como, come in altre realtà di questo genere qua, si fanno carico da soli di un'ipocrisia che c'è in questo momento in Europa. Tra l'altro le foto di Ventimiglia sono finite sul giornale in prima pagina. Sallusti, voi avete fatto per 2 o 3 giorni l'apertura, per la verità anche oggi aprite sulla Merkel e la sconfitta elettorale a Berlino e quindi il tema immigrazione. Perché avete voluto scegliere queste foto di Ventimiglia per raccontare in qualche modo che cosa? Il disastro di questa gestione immigrazione? Sì, quelle foto si riferiscono allo stato di degrado in cui è caduto il commissariato di la questura, il commissariato di Ventimiglia, cioè un bivacco, gente che dorme per terra, sedie spasciate, cessi indegni anche di un paese che non si trovano neanche in un paese del terzo mondo. In quella struttura devono vivere questi immigrati in attesa di identificazione o di permessi, i poliziotti e i cittadini che hanno il diritto di andare in questura a svolgere le pratiche che devono svolgere. Ora io, dal punto di vista simbolico, quando un edificio che è la lunga mano dello Stato sul territorio, che al suo esterno ha la bandiera italiana, al suo interno è ridotto in uno Stato, che dire pietoso, fa schifo, letteralmente schifo, vuol dire che si è toccato veramente il fondo. Quindi quelle immagini sono l'emblema di uno Stato che addirittura manda in degrado se stesso, tanta è l'incapacità o la non volontà politica di risolvere il problema. Ma fa bene Renzi a far la voce grossa, Pittella ci sta dicendo che non è stato rispettato un patto, Sallusti. Sì, ma qui mi sembrano, è ovvio che fa bene a far la voce grossa, ma qui mi sembrano come se la protezione civile di un paese di fronte a un terremoto, a un incendio e tutto quanto, invece di andare qual è la dinamica? Prima ripristino le condizioni di sicurezza, di ordine, di civiltà, dopodiché mi interrogo sulle cause e cerco le soluzioni. È come se noi non avessimo ancora tolto una macerie nelle zone terremotate e avessimo fatto dei grandi convegni su come evitare o prevenire i terremoti. A me sembra che continuano a fare dei vertici per cercare le cause e i rimedi e nessuno fa nulla per spegnere l'incendio che sta bruciando le nostre città. Prima spegniamo l'incendio, poi a bocce ferme decidiamo come non far ripetere questo incendio. Però l'incendio vorrebbe dire insomma andare in Africa a fare questi famosi accordi bilaterali, lo dovrebbe fare l'Europa. Ma se io sapessi come si fa, probabilmente non farei il direttore del giornale, sarei il capo del governo. Ma è certo che quell'immagine di Ventimiglia, come l'immagine di Como, non è accettabile a prescindere dai vertici, dai trattati bilaterali e trilaterali. Voglio dire, l'Inghilterra, che non è una pericolosa dittatura ma la più antica democrazia del mondo, ha tirato su un muro a un certo punto, nell'attesa di discutere su cosa fare, ha tirato su un muro. Noi non abbiamo questa possibilità tecnica, perché il muro dovremmo tirarlo su sulle coste libiche, questo è perché si tira su al punto di partenza, noi non abbiamo un parodo d'arrivo via terra, però voglio dire, da qualche parte ci deve essere una soluzione che blocchi il degrado e ci faccia uscire da uno stato emergenziale ormai cronico. Dopodiché i vertici ovviamente va bene o va male, Pittella, qua la soluzione Sallusti non ce l'ha, però ha evocato, ha citato il muro non come soluzione, ma l'Inghilterra l'ha fatto, l'Ungheria o meglio lo vuol fare, l'Ungheria l'ha fatto. I muri non sono la soluzione, questo lo dico io, però Pittella, che dobbiamo fare per fermare questo incendio? Allora, la strategia c'è, non è vero che non c'è una strategia, incontra qualche difficoltà, ma c'è. Noi abbiamo istituito la Guardia Costiera Europea per rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne dell'Europa. L'abbiamo votato in Parlamento, è stato approvato dal Consiglio, quindi sarà diciamo messa in pratica. Uno, due, bisogna fare i controlli e diciamo discernere i rifugiati e i profughi dai migranti economici. Tre, bisogna integrare, bisogna accogliere i rifugiati e vedere se ci servono i migranti economici e integrarli. Quattro, bisogna intervenire nei paesi di origine dell'immigrazione, e su questo voglio dire a Giannino, che è scettico, che noi socialisti, io posso parlare per conto del mio gruppo parlamentare, 190 deputati, secondo gruppo parlamentare del Parlamento europeo, per noi la fiducia a Juncker è condizionata da questo punto. Questo è uno dei punti su cui noi non daremo la fiducia a Juncker se non manterrà questo impegno. Il programma per l'Africa deve essere realizzato, è uno dei punti qualificanti dell'intesa politica che regge la Commissione Juncker. Ah, beh, insomma, disposti anche a togliere la fiducia, e comunque io ne prendo atto, Peter, non è che metto in dubbio quello che dice lei. Le induco solo a riflettere: da anni quello che conta in Europa nel processo decisionale, lasciamo perdere i trattati, che anch'io li conosco, però è che le decisioni si prendono col metodo intergovernativo. Facciamo l'esempio della flessibilità. Tutti i giornali italiani riportano che Juncker si è incontrato a Bratislava, il presidente della Commissione, con Renzi, e ha detto: ma io sulla flessibilità la penso come te. Naturalmente il presidente della Commissione, in una situazione di realtà in cui a decidere sono i governi in Europa, e la Commissione ha perso ogni ruolo, e io capisco che voi ne facciate una questione con la Commissione. Temo che il problema è che al tavolo del Consiglio europeo la maggioranza purtroppo dei paesi, quei 45 miliardi in Africa, per ragioni che hanno a che vedere con i loro interessi, non li vuole. Ecco, il mio è un giudizio da osservatore, non è che io metto in dubbio quello che dice lei o il gruppo socialista europeo cosa chiede e cosa vuole. Dico che realisticamente, se io devo fare il giornalista e dire all'opinione pubblica, o per una radio o attraverso i giornali, date per scontato che ci sarà, il mio compito è quello di spiegare le difficoltà oggettive che ci siano. Anche qua. Perché, Pitella, voi darete anche la sfiducia, magari cade il governo politico dell'Europa, ma se questi soldi non ci sono, quel famoso incendio non si ferma, il problema rimane, ecco. No, ma il meccanismo per trovare i soldi per un'operazione finanziaria l'ha già individuato la Commissione Juncker, quindi il problema vero non è né nella individuazione dei soldi né nella volontà del Parlamento, della Commissione. Il problema vero è superare quelle difficoltà che appunto diceva Giannino nell'altro del Consiglio europeo, ma lì c'è una lotta, sia chiaro, non è che le cose fanno certo così. Lì c'è una lotta tra alcuni governi che spingono, come il governo Renzi, e altri che si mettono di traverso. Ma come è passato l'accordo con la Turchia, che ci ha fatto venire il mal di pancia, il mal di stomaco, la gastrite a tutti noi, deve passare anche l'accordo questo con l'Africa. In tutto questo, cioè, i comuni si ritrovano in situazioni, certo, Ventimiglia è un comune di frontiera e quindi ancora più complicato. Sindaco Ioculano, io non ho capito quelle immagini che abbiamo visto quest'estate, ma anche di recente le foto. Lei è di quelli che dice no, dovrebbero essere aperte le frontiere, la Francia dovrebbe permettere in qualche modo una libera circolazione, oppure di quelli che dice la Francia fa bene anche se si ritrova il problema sul suo territorio? No, io non dico che la Francia faccia bene, perché non è questo un atteggiamento, come si può dire, solidale tra paesi amici e l'Unione Europea. Però sono dell'idea, insomma, che ogni Stato dovrebbe fare la sua parte. Noi oggi accogliamo oltre 160.000 persone che sono sbarcate quest'anno, ne avremo anche l'anno prossimo un tot che arriverà, e di cui ce ne faremo carico noi. Allora, io mi chiedo se è normale, se è possibile che un'Unione Europea non rispetti i patti, una distribuzione equa. Io penso che queste 160.000 persone, se già distribuite sul nostro territorio, non avrebbero questo forte impatto che hanno oggi. A maggior ragione, se venissero ridistribuite e distribuite in modo opportuno e congruo su tutta l'Unione Europea, noi non ne sentiremo. Siamo proprio sempre lì. Ci sono paesi che non li vogliono. Appunto, quindi capisce bene che non posso essere d'accordo con l'atteggiamento che ha la Francia o tanti altri paesi, perché purtroppo poi tanto populismo che vediamo, tanto populismo che sentiamo, nasce proprio da questa, si può dire, indisposizione da parte di tanti stati di fare la loro parte in modo solidale. Allora, il concetto è capire il senso di questa Unione Europea. Politicamente mi pare abbastanza assente o vuota, e sta diventando solo ed esclusivamente un soggetto economico che però senza politica ha grosse difficoltà. Beh, sulle questioni concrete effettivamente un po' è così, si vede. Oscar, qua abbiamo il direttore del giornale, abbiamo un minuto, ma vogliamo chiedergli di Parisi, perché l'ha intervistato prima della convention. Pare che Berlusconi... Tu dici, a proposito di immigrati non in regola, no, centrodestra, Parisi. No, pare che Berlusconi abbia detto... l'ho vista un po' una convention professorale, un po' troppo, insomma, dottorale. I professori non citano Berlusconi, il problema secondo me era quello, non era citato. Esatto. Sallusti, sto bastardo. Parisi riesce a, come dire, a fare sangue negli elettori del centrodestra o no? Ma cioè, se noi immaginiamo un nuovo Berlusconi, c'è l'orizzonte, ma neanche per colpa di chi naviga nell'orizzonte, nel senso che di Berlusconi ne nascono uno ogni secolo, ogni mezzo secolo, quindi immaginare un doppione è sbagliato. Parisi ha avuto il coraggio di metterci la faccia, ma ovviamente non è Berlusconi, non lo è in tutti i sensi e neanche nella forma. Adesso, se questo nuovo approccio possa piacere o no gli elettori del centrodestra, lo vedremo strada facendo. Un po' professorale, però, ti è sembrato un po' troppo? Beh sì, e poi abituati appunto ai toni di Berlusconi, sì, questo. Certo, è un altro mondo. Non è detto che non sia un mondo compatibile con quello. Vabbè, questo poi abituati. Come si sa, il giudizio poi sarà sempre quello degli elettori. Esattamente. Grazie a tutti, Alessandro Sallusti, Gianni Pittella, Enrico Ioculano, con le 20 miglia e soprattutto caro ascoltatore napoletani, ringraziate San Gennaro. Beh, insomma, come sempre, dai, ci troviamo domani.